Quando io ero piccio andavo al bagno, andavo fino a Barcola sui scogli, e saltando in acqua come un ragno, me restava tutti i pietaiai. Se mi piaceva sai giocare, certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste sei in Pisa, meravigliosa città, su poco Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena di mare. A 18 anni con la Vespa andavo in Villa Giulia a far l'amore, non avevo altro per la testa che la libertà de pagolà. Che bel potersi innamorare, certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste si infissa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantare. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena di mare. Quante gite, quante camminate, e solo in macchina e so già che qualcosa intanto è cambiato e la gioventù non tornerà. Mi son tornato ancora là, solo per rivedere la mia città. Oh, quando Trieste sei in Pisa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena di mare. Come una mula bellissima va Trieste piena di mare.